Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Eh beh, buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Scusate, mi scappa un po' da ridere oggi perché tra tutte le puntate che abbiamo fatto e citato il soffitto di cristallo e il fatto che eravamo lì per scalfirlo, farlo anzi incrinare definitivamente, c'era una donna che era lì per arrivare, indovina, alla Casa Bianca. Ebbene, tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto anche qui a Nessuna è perfetta, e poi plof, ci si è sgonfiata la candidata, come dire, spinta via dal vento del tupé biondo del suo concorrente Donald Trump. Vabbè, succede. E l'altro giorno, prendendo atto della sconfitta, Hillary Clinton con gli occhi lucidi, e non è facile vedere Hillary Clinton con gli occhi lucidi, l'ha detto: non abbiamo ancora sfondato quel tetto di cristallo, ma qualcuno ci riuscirà, prima o poi. Lei però no. Come si rielabora una sconfitta? È di questo che parliamo questa domenica. E dunque la grande sconfitta di queste ore, Hillary Clinton. Ma come è andata e come ce la farà a riprendersi da una botta così potente? Chissà, lo chiediamo al nostro agente provocatore di questa settimana, un agente provocatore che proprio sulle sconfitte ha meditato in un libro molto interessante che è pubblicato dall'editore Bollati Boringhieri. Il libro si chiama Bisogna saper perdere, sconfitte, congiuri e tradimenti in politica, da De Gasperi a Renzi. Buona domenica Paolo Volterra. Buona domenica a voi, grazie Maria. Il libro è scritto insieme a Filippo Maria Battaglia, che è un collega di Sky TG24. Siete tutti e due di Sky TG24, quindi un po' diciamo anche della mia famiglia, mettiamola così. Assolutamente. La tentazione di parlare di questo libro proprio nella settimana della grande sconfitta di Hillary era assolutamente irresistibile. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti, Paolo, è: la Clinton aveva già perso una volta contro Obama ed era riuscita a risalire, no? È un tipico esempio di caduta e risalita, anzi quasi un caso di scuola. Ce la farà a riprendersi da questa seconda botta? Se devo dire la mia opinione, guardando quello che ha fatto nelle ore in cui il mondo era col fiato sospeso e nel momento in cui tutti ci aspettavamo il concession speech, cioè il discorso in cui il candidato sconfitto concede la vittoria all'avversario, ci ha fatto aspettare quasi 10 ore. A me sembra che questa sconfitta l'abbia presa piuttosto male. Il bisogna saper perdere, in questo caso, lei dovrebbe leggerselo un po' da cima a fondo. Le manderai una copia del libro, gliela mandi in inglese? Appena così facciamo la traduzione in inglese, sarà sua. Ecco, leggo con qualche, diciamo, perplessità molti commenti di colleghi giornalisti uomini, i quali sotto secondo me non sono dispiaciuti che questo benedetto soffitto di cristallo non sia stato incrinato, e sono tutti lì a dire: beh, ma Hillary Clinton ha perso perché è una donna maschile, una che non era empatica, non è stata capace di entrare in sintonia. Cosa pensi di queste accuse formulate alla sconfitta Hillary? Io io credo che non c'entrino molto con il fatto che lei sia una donna non empatica. Non è empatica probabilmente per la sua estrazione sociale, culturale, per la sua provenienza, però hai ragione tu, c'è stato un piccolo sogghigno da parte di tanti maschi, di tanti white, non sono WASP, ma insomma di tanti bianchi, soprattutto della fascia più provata della popolazione, quasi a dire per l'ennesima volta non ce l'avete fatta. Non è il fatto che non fosse empatica come donna, non era empatica come persona probabilmente, non era credibile il fatto che un membro dell'establishment, perché Hillary Rodham Clinton lo è stata, andasse a fare i discorsi là dove si erano persi 500-600 mila posti di lavoro dal 2008 a oggi. Scrivendo questo libro, tu e il collega Battaglia, che cosa avete imparato dalle sconfitte? Abbiamo imparato innanzitutto che molti politici italiani nel corso degli ultimi anni della Repubblica, in questi 70 anni di Repubblica, non hanno saputo perdere bene. Quelli che hanno saputo perdere hanno saputo rialzarsi, difatti questo è un discorso buono per la Clinton, probabilmente anche per Trump. L'accettare la sconfitta, il saper dire è vero, ho perso ed è mia responsabilità, è stato raro in politica. Forse l'ho saputo fare qualche volta, l'ho saputo fare Renzi di recente, De Gasperi in qualche modo, anche se uno statista a un certo punto come lui si è trovato di fronte a un partito completamente ingovernabile, ribelle ad una rivolta di correnti. Saper perdere non è certo una caratteristica italiana, politica e non. L'ultima cosa che voglio chiederti: perdere può anche voler dire non vincere al momento giusto. Che bella! Ha detto Ciriaco De Mita. Che vuol dire? Questo fa parte di un linguaggio demitiano, ma probabilmente anche di un nostro carattere italiano. Ammettere la sconfitta è difficile, e allora uno dà sempre la colpa a qualcos'altro, alle condizioni esterne, al nemico, a qualcuno che in quel momento non ci ha capito. È anche una caratteristica della politica italiana, se ci pensiamo. De Mita fa un discorso in cui dice... si vota anche col sentimento, ma prima viene il ragionamento, anzi dice ancora il ragionamento. Quando il ragionamento non diventa sentimento, ecco che arriva la sconfitta, ma non vuol dire che il ragionamento non fosse giusto. Quindi tutto pur di giustificare una sconfitta che invece è nei fatti e nelle cose. Comunque di sconfitte micro, piccole, no? È fatta la vita di tutti i giorni. Per guardare anche fuori talvolta, no? Dalla nostra piccola dimensione, un po' talvolta anche ci compiacciamo di lamentarci, no? Delle nostre piccole sconfitte, leggete il bel libro di Paolo Volterra e Filippo Maria Battaglia, Bisogna saper perdere, edizioni Bollati Borinchieri. Grazie, buona domenica al nostro agente provocatore Paolo Volterra. Grazie a te, grazie a voi e agli ascoltatori. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della nostra Sunday Girl, e siccome questa domenica parliamo di sconfitte, ma anche di come si reagisce, come ci si riprende alle sconfitte, non potevamo che avere una Sunday Girl che di battaglie ne ha fatte tante e che si definisce una combattente. Benvenuta, buona domenica, Fiorella Mannoia. Questo è il titolo dell'ultimo album, per l'appunto Combattente. Perché? Buongiorno, grazie dell'invito. Beh, è una canzone che mi è stata regalata in realtà. Le persone pensano che l'abbia scritta io, ma in realtà non è così. Avrei tanto voluto, ma è una canzone di una giovane autrice, si chiama Federica Abate, e di Alfredo Rapetti. L'hanno pensato a me per questa canzone, perché evidentemente... Perché sei una combattente. Beh, insomma, io un pochino, insomma, mi ci sento, ma non ho la presunzione di pensare che io sia la sola combattente. Qui mi pare che combattiamo tutti, cioè non è combattiamo tutti le nostre battaglie, chi per un traguardo, chi per un amore, chi per la salute, chi per un lavoro. La vita, come dicevi tu, insomma, è fatta di sconfitte e di risalite, eh? Esatto, cadi, ti rialzi, ricominci, poi ricadi. Ci racconti quella che è stata secondo te una tua sconfitta e come ne sei uscita? Beh, insomma, di sconfitte personali ce ne sono state, come per tutti. Quando ti succedono queste cose, cioè quando la vita si mette alla prova, ti sembra che in quel momento il mondo sia finito, no? Che non ci sia un'alternativa, una via d'uscita. Invece poi con il tempo ti accorgi che non solo ce la fai, se hai la volontà di rimetterti in piedi, non solo ce la fai, ma poi ti guardi indietro e dici che forse pensi anche che niente succede a caso nella vita, no? Magari si aprono strade nuove, migliori di quelle che hai lasciato. Per cui è una scommessa continua, ecco. E quindi anche dalle sconfitte si può uscire sicuramente più rafforzati e magari con un percorso nuovo. Nuovo questo... e non è detto che non sia migliore, spesso è migliore dell'altro. Ma in quel momento, quando la vita ti mette in ginocchio, insomma ti mette alla prova, in quel momento ti sembra tutto irrecuperabile, tutto disastroso. Poi con il passare del tempo ti accorgi che non solo ce la fai, ma che non è successo in vano e non è successo a caso, perché ci si aprono nuove strade, nuovi orizzonti. In queste ore, Fiorella, stiamo parlando molto di una grande sconfitta, di Hillary Clinton. Qualcuno si frega le mani pensando, ecco, così finalmente le donne la smetteranno di scocciarci con questa storia del soffitto di cristallo. Volevano arrivare alla Casa Bianca e invece ciccia, anche stavolta non ce l'hanno fatta. La consideri una battuta d'arresto o una sconfitta? E la Clinton se l'è meritata? Ma guarda, io penso, a me la Clinton non mi piace, sono sincera, per cui non è quel prototipo di donna che io vorrei vedere alla guida di un paese, se posso dire la verità. Certo che tra questi due, è come se tu mi avessi detto, vuoi una martellata su un piede o una in testa? Forse ti dico dammela sul piede, perché la testa a me non serve, ecco, per cui mi fa più paura quella in testa, ma insomma non mi piacevano nessuno dei due, se devo essere sincera. Io immagino un altro tipo di donne, no? Non è detto che per forza, perché è donna, solo perché è donna deve essere votata. È la candidata giusta. No, secondo me non è così, per cui certo ha preso una sconfitta, ma è una sconfitta che va al di là del fatto che sia una donna. Forse non era credibile, forse rispecchiava dei poteri che gli americani erano stufi. Si sono buttati dall'altra parte perché quello per loro era una novità e pensano che si possano scardinare determinati meccanismi. Ma secondo te avremo un backlash, un tornare indietro rispetto ai passi avanti che le donne proprio in questi ultimi anni hanno fatto? In fondo avere una candidata a un passo dalla Casa Bianca è stato un riconoscimento importante per le donne di tutto il mondo. Lei non ci è riuscita ed è una sconfitta di tutte noi o no? No, io non lo penso affatto che sia una sconfitta di tutte noi. Io francamente, quando si sono candidati, da donna devo dire che non ho mai pensato di tifare per lei in quanto donna. Io tifo la persona, cioè, per cui per me non è una sconfitta. Noi abbiamo delle altre, ci saranno delle altre candidate che magari sono un po' più credibili. Non la vedo una sconfitta delle donne, assolutamente no. In questo album Combattente, tu porterai in giro per l'Italia, sarai in tour da Bergamo il 1 dicembre fino a Roma il 22 dicembre, sì. Parli molto delle donne. Sì, certo. In questo momento, se tu dovessi fotografare la realtà femminile in Italia, come le vedi? Le vedi combattenti o ripiegate le donne italiane? Io penso che siano combattenti. La donna si arrende molto meno facilmente di un uomo, secondo me. Tanta strada è stata fatta, ma purtroppo tanta strada c'è ancora da fare. D'altra parte, quando ci sono periodi di crisi, le prime a soffrire sono le donne. Sul mondo del lavoro, nel mondo del lavoro, come sai, sono sempre pagate meno degli uomini in tutti i settori, il suo, il mio, in tutti i settori. Purtroppo nelle condizioni in cui oggi il mondo del lavoro si sentono anche si sentono anche quei racconti in cui, no, si fanno firmare delle carte di dimissioni. Nel film Sette minuti di Michele Esatto. Placido, del esatto. quale tu sei una delle attrici. Esatto, quello è uno spaccato del mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro in cui sta ritornando un po' indietro, no? Tutti i diritti che noi pensavamo acquisiti e inalienabili oggi si sgretolano perché c'è crisi, perché ci sono tanti altri fattori che una volta non c'erano, c'è una forte immigrazione, ci sono persone disposte a tutto pur di lavorare, e questo purtroppo mette in crisi un'intera economia. Perché poi è vero che c'è crisi, però è anche vero che c'è tanta gente che si approfitta di questa crisi, no? Per cercare eserciti di nuovi schiavi, perché diciamo la verità, quando si sta poi si scanna tra di noi per un posto di lavoro, questo fa gioco. E allora in questo film viene raccontato quando il lavoro bene. È poco, certo. Senti, certo, quando in il lavoro chiusura, è poco. Un pensiero a delle donne alle quali forse tutti dobbiamo qualcosa, cioè le nostre madri. C'è una canzone, oggi è domenica, e infatti è domenica anche qui a Nessuno è Perfetta, sì. Che tu hai dedicato a tua madre. Sì, veramente questo è stato un regalo di miei amici autori, Bungaro e Cesare Chiodo, che mi conoscono tantissimo e conoscono tanti anni che lavorano con me e conoscono molto bene la mia vita. E una sera raccontando... abbiamo tutti più o meno la stessa età, per cui facciamo i conti tutti con i nostri genitori anziani e facciamo i conti con questo distacco che non è mai facile da affrontare a qualsiasi età. Per cui parlando con loro sapevano che io tutte le domeniche la passavo con mia madre, cascasse il mondo, a parte qualche impegno di lavoro, però io tutte le domeniche stavo con lei, e un giorno si sono presentati con questa canzone che per me è un grande regalo, anche se è un regalo che mi fa male, cioè nel senso che mi commuove, insomma, te lo spiego a fare, poi capire, no, da, certo, potete capire da soli che cosa. Lo possiamo capire tutte, e allora ogni domenica con te si chiama. Ogni domenica con te, che è la canzone che ha dedicato a sua madre, ogni domenica con te, bene, diciamo che virtualmente la dedichiamo tu alle nostre mamme, e io la dedico alla mia. grazie mille, buona domenica, grazie per la buona domenica a tutti voi, grazie. Ora è cambiato tutto all'improvviso, guardo un orizzonte che non c'è, sono solo pezzi di emozioni, quello che rimane. Mi hai lasciato sempre scegliere, eppure non mi sento libera. Ti ho rubato l'ultimo sorriso, quello che rimane. Avrei voluto vivere fermando ogni domenica con te. Avrei voluto credere che non finisse mai. Qualcosa che rimane anche quando il cielo cade. Ogni mio traguardo sul tuo viso ad illuminare i miei perché. Lo mostravi tutto in quel sorriso e quello mi rimane. I minuti abbracciano le ore, come strana la felicità. Come un'onda arriva e poi si muove dentro questo mare. Avrei voluto vivere fermando ogni domenica con te. Avrei voluto vincere e vincere con te. Avrei voluto essere il destino per decidere il domani, qualcosa che rimane anche quando tutto cade. Attraverseremo questi giorni, io mi sento come tu mi vuoi. Questo mio bisogno di tornare, passare ogni domenica con te. Anche se non trovi le parole, le descriveranno gli occhi tuoi. anche quando tutto cade giù. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Ed è il momento della nostra ascoltatrice e del problema che pone. Sapete, questa è una puntata in cui parliamo di sconfitta. Come si rielabora una sconfitta? Vi ricordo che potete scriverci a nessunaeperfetta@radio24.it o commentare quello che ci dicono i nostri esperti su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta e anche su Facebook. La lettera che ci scrive Grazia oggi parte proprio da una sconfitta. Sono un assistente commerciale di una grande azienda di servizi. Qualche mese fa la nostra azienda ha aperto una selezione interna per un ruolo di responsabile di un nuovo reparto. Ho colto al volo questa opportunità, la mia candidatura è stata accettata, in questi ultimi mesi ho dato il massimo, ma qualche giorno fa l'amaro epilogo. Alla fine mi hanno fatto sapere di aver scelto un'altra candidata. Non le dico la delusione. Il mio compagno mi dice che noi donne siamo incapaci di accettare una sconfitta e che questo episodio dovrebbe invece farmi riflettere e migliorare. Ha ragione lui? Vi presento subito gli esperti che ci aiuteranno oggi a rispondere a Grazia e a capire anche il senso, se c'è, il valore anche delle sconfitte. Ilaria Capua, scienziata, virologa, ora direttrice del Centro di Eccellenza dell'Università della Florida. Ilaria Capua, credo che questo nome vi sia particolarmente familiare perché è stata al centro di una nota vicenda che ci racconterà lei proprio tra un secondo. E Marco Follini, che è politico di lunghissimo corso, è stato esponente di spicco della Democrazia Cristiana prima, poi dell'UDC, è stato vicepresidente del Consiglio, dopo essere confluito nel Partito Democratico, poi ha lasciato il PD e la politica e dal 2014 è presidente dell'Associazione Produttori Televisivi. Buona domenica, Marco Follini. Buona domenica a voi. Allora, io vorrei cominciare da Ilaria Capua perché la sua è una storia di una apparente sconfitta dalla quale poi invece si riemerge vincitrici. Com'è andata la fase della caduta e quella della risalita, dottoressa Capua? Buongiorno a tutti. Allora, io a un certo punto della mia vita ho deciso che avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo e stavo per guardarmi intorno, per vedere se ci fossero altre opportunità in giro. E proprio in quei giorni mi chiamò Mario Monti per chiedermi se io avessi voglia di candidarmi nella sua lista, nella lista civica per le elezioni del 2013. Quanto tempo ho per decidere? Lui mi rispose 24 ore e io dopo 24 ore gli dissi di sì. E quindi fui eletta alla Camera e dopo un anno fui eletta alla Camera con l'intento di portare le ragioni della scienza in Parlamento. Parallelamente c'era stata, però, lanciata. Ilaria Capua, parallelamente c'era stata una storia di grande successo per la scoperta di un virus che aveva portato il suo nome su tutti i giornali. Sì, io avevo in realtà isolato e caratterizzato questo virus e l'avevo messo però in un database open access in modo che tutti gli scienziati del mondo potessero lavorarci, e questa è stata un po', diciamo, la grande sfida che ho vinto, perché oggi, questo è avvenuto nel 2006, ma oggi chi isola un virus di un certo tipo è di fatto obbligato a condividerlo con la comunità scientifica. Dopodiché a un certo punto la denuncia. Veniamo al momento duro, difficile, no? Lei è stata accusata... Appena un anno dalla mia elezione in Parlamento, scopro dal settimanale L'Espresso, di cui avevo fatto la copertina mio malgrado, ero coinvolta in un'indagine su un traffico internazionale di virus, e secondo la Procura di Roma e secondo il giornalista io ero una mente criminale che invece di proteggere la sanità pubblica metteva a rischio la sanità pubblica vendendo questi virus sottobanco alle aziende. E per me è stato durissimo, perché la mia immagine di scienziata che aveva portato avanti anche delle battaglie etiche è crollata, e agli occhi ovviamente non delle persone che mi conoscono, ma agli occhi, diciamo, del lettore, certo, di settimanali, e ho scoperto appunto che la Procura di Roma mi accusava di essere responsabile del reato di epidemia. Qui apro e chiudo una parentesi: l'epidemia di cui ero stata accusata, secondo la Procura di Roma, era causata da un virus che non ha mai circolato né in Italia né in Europa, chiudo la parentesi. Però il reato di epidemia, giustamente, è un reato punibile con l'ergastolo, quindi io mi sono trovata accusata di tantissimi reati, tra cui concussione, corruzione, abuso d'ufficio, falso ideologico, eccetera, eccetera, e mi sono resa conto di rischiare l'ergastolo. Ecco, poi veniamo alla fase dura, no? In cui uno si ritrova, si gira e si trova solo, e alla risalita. Io vorrei adesso andare da Marco Follini. Perché Marco Follini? Perché Marco Follini, nella sua vita di politico di lungo corso, ha visto tante cadute e ha assistito anche a qualche risalita significativa. Come si risale in politica? È facile o è difficile? Ma intanto vorrei dire che la politica non è un inseguimento di vittorie e di sconfitte. La politica è semina e raccolto. Se noi la interpretiamo nella chiave della contesa sportiva, naturalmente è più difficile rintracciare i meriti delle persone che ci si dedicano. Ilaria Capua, per esempio, secondo me è una persona che anche politicamente ha vinto la sua battaglia. Però questo è un giudizio, diciamo, personale, è un apprezzamento che le faccio, dato che ho l'occasione di incrociarla in una trasmissione. Ma per fare un esempio, no? di una ascesa, caduta e risalita, di quelli che si definiscono, i titolari di carriere a sorpresa, chi le viene in mente? Beh, nella storia del dopoguerra, personaggio più tipico è Fanfani, che cade e si rialza innumerevoli volte, che è indubbiamente un grande della Repubblica, anche se non riesce a tagliare il traguardo che gli era stato pronosticato del Quirinale. Però era un po' il destino di tutti quei leader che salivano e scendevano in continuazione, lungo strade e carriere fin troppo lunghe, con alterni rovesci di fortuna, e che però hanno tenuto saldamente in mano le redini del gioco politico per qualche decennio. Ilaria Capua, poi è cambiata la musica. Certo. Ilaria Capua, che cosa si impara nei momenti della caduta? Cioè, quando lei ha dovuto aspettare che poi arrivasse la sentenza che ha fatto giustizia, e questo lo diciamo subito anche perché i minuti corrono e sennò non abbiamo il tempo di fare tutta la storia, ma che cosa ha imparato lei nei lunghi mesi è rimasta sola, le sono state vicine delle persone, ha dovuto fare i conti anche con l'invidia e la competizione magari di molti colleghi che forse erano anche dietro a tutta questa vicenda. Che cosa ha imparato da quella fase della sconfitta? Ho imparato che dalle peste e dalla disperazione, perché io non lo nascondo questo, io sono stata disperata per un certo periodo, perché questa cosa è arrivata come un fulmine a ciel sereno e io ero completamente impotente, perché poi non c'è stata la soluzione, c'è stato il proscioglimento, perché il fatto non sussiste, il che vuol dire che io non sono arrivata neanche al dibattimento, quindi certo. Un giudice per l'udienza preliminare dopo 2 anni e mezzo ha preso in mano il fascicolo e ha detto di cosa stiamo parlando. Nel frattempo però sono passati 2 anni e mezzo, io vivevo a Padova in un piccolo comune, a Padova sono conosciuta e oltretutto frequentavo la Camera dei Deputati, e io ero piena di vergogna, perché ti senti sporca, ti senti un untore, cioè ti senti io mi sentivo un'untrice, ma non tanto per la faccenda dei virus, perché nessuno, se non le persone che ti stanno più vicino, quindi ovviamente i tuoi familiari, i tuoi amici più cari, ti tende una mano. Sei da solo, però la rinascita viene da te e non viene dagli altri. Io ho deciso di riprendere in mano la mia vita, perché ho capito che questa vicenda giudiziaria poteva durare moltissimo, perché mi era stato detto: guarda, la giustizia è quello che è, i tempi sono quello che sono, tu potresti chiudere questa faccenda, perché è ovvio che non hai fatto niente, in 3 anni, 5 anni o 10 anni. Di fronte a questo 5 anni o 10 anni, io ho detto: io devo vivere la mia vita, io ho compiuto quest'anno 50 anni, non potevo, nonostante avessi un posto all'istituto, perché ero in aspettativa, ecco, avrei potuto tornare e fare quello che lavora. Quindi, dalle 8 alle 4, certo. E poi riprendere in mano la sua vita significa decidere di dimettersi dal Parlamento e andare in Florida a dirigere il centro di eccellenza che lei oggi dirige. C'è voluta, esatto, una forza interiore per dire: bene, metto un punto e vado a capo e ricomincio. Sì, c'è voluto il rispetto per me stessa. Io invito chi non lo avesse fatto ad ascoltare il mio discorso di dimissione alla Camera, dove faccio alcuni ragionamenti, ma dico soprattutto che io ho preso questa decisione di andare negli Stati Uniti e fare quello che so fare e che voglio fare per 2 motivi. Primo, per rispetto per me stessa. Secondo, per il rispetto per gli elettori, perché io non stavo facendo quello che avrei voluto fare. E terzo, per rispetto del tempo. Ognuno di noi ha un tempo limitato che gli resta da vivere. È così, che ci vogliamo pensare oppure no. Noi abbiamo il dovere di usare al meglio quel tempo. E io ho deciso di prendere la mia famiglia e di ricominciare a fare quello che so fare e quello che mi piace fare. Ecco, da una vicenda così drammatica come quella che Ilaria Capua ci ha raccontato, veniamo, Marco Follini, a vicende tutto sommato, come dire, umane, no? La sconfitta elettorale. Lei come ha reagito a una sconfitta elettorale? Si è tappato in casa per 3 giorni, come una volta mi disse Emma Bonino? No, devo dire, qualche sconfitta l'ho subita, però sconfitte elettorali non ne ricordo. Io ricordo le dimissioni, ricordo che quando maturò l'accordo per questa legge elettorale, tanto controverso Porcellum, io mi dimisi. Dal ruolo che aveva? Non so se considerarla una sconfitta o una vittoria. Si dimise da dove? Io ero segretario dell'UDC, sì. E la legge passò sostanzialmente in virtù di un accordo tra Berlusconi e Casini, adesso la faccio corta. Sì. Di fronte a questa realtà io ebbi un attimo di esitazione e poi decisi di dimettermi. Penso che, diciamo, tra gli atti politici che ho compiuto, forse questo è quello che rivendico con maggiore vigore. A conferma che non sempre le vittorie sono così limpide e non sempre le sconfitte sono prive di gratificazione e anche di un fondo quasi di dolcezza a posteriori. Ecco, torna in tutti e due i vostri casi, sia pure appunto con livelli di drammaticità diversi, questo fatto di dimettersi e, come dire, cambiare, no? Svoltare, fare un'altra vita. Vi vorrei chiedere in un secondo davvero a tutti e due di dare un consiglio su una dimensione molto più quotidiana, che è quella di una piccola sconfitta nel mondo del lavoro, quella che ci ha raccontata la nostra ascoltatrice Grazia, che pensava di avercela fatta, di aver fatto un piccolo passo in avanti nella carriera e invece è stata rispedita indietro. Allora, brevissimamente un consiglio a Grazia da Ilaria Capua e poi Marco Follini. Le sconfitte fanno crescere, purtroppo succede, bisogna rimettersi in piedi e ripartire più forti di prima. Marco Follini. Beh, vado in fotocopia, anch'io penso che le sconfitte abbiano una loro nobiltà, bisogna accettare il verdetto, poi ci si rimette in pista, sapendo però che non si gioca più la partita di prima, non è una rivincita, è un'altra partita che si ha tutto il titolo e tutto il merito di poter giocare. Un commento altrettanto rapido sulla grande sconfitta di queste ore, Hillary Clinton. Ilaria Capua? Evidentemente lei con i suoi messaggi così forti non è bastata all'elettorato americano. È duro da dirlo, però mentre Trump avrebbe potuto anche, fra virgolette, vendersi meglio, perché ha fatto tutta una serie di scivoloni, alla fine lui ha vinto tutto, ha vinto contro i democratici, ha vinto dentro ai repubblicani, ha vinto sia Camera che Senato, quindi vuol dire che l'elettorato si aspettava forse qualcuno di meno preparato e meno con meno aplomb, però più sincero e più umano. Marco Follini, la grande sconfitta di queste ore, Hillary Clinton. Ma direi che ha pagato il prezzo di una certa freddezza, il suo lato maschile, professionale, che non l'ha aiutata. Però ai miei occhi ha un grande merito, non si è travestita, non si è camuffata, si è presentata per quello che era. Naturalmente oggi c'è l'amarezza del risultato, ma domani chissà, forse gli storici le renderanno merito di avere fatto una campagna elettorale senza armi improprie. Grazie Ilaria Capua, grazie Marco Follini, buona domenica a entrambi. Grazie. Grazie. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno per l'ultima parte, lo sapete che questa a Nessuna è perfetta, è la parte dedicata al consiglio pratico della nostra coach, benvenuta, buona domenica Carla Ciani. Il buona punto domenica a tutti. Che vorremmo affrontare è dire a Grazia e a chi come lei sta attraversando una sconfitta sul mondo del lavoro, come trasformare questo sentimento di sconfitta in un punto di forza. È possibile? Ci si può riuscire? Certo, è possibile. Ed è davvero così, la sconfitta può trasformarsi in un punto di forza se partiamo prima di tutto dalla consapevolezza che la vittoria o la sconfitta sono semplicemente l'esito positivo o negativo di una competizione, mentre spesso noi donne vediamo nella sconfitta un giudizio complessivo su noi stesse. Quindi Grazia dovrebbe ricollegarsi a che cosa davvero l'ha spinta a quel gioco, considerare se le è piaciuto giocarlo e valutare quanto si sente più abile nel giocare al meglio le prossime partite. Quindi il punto di forza è comprendere che abbiamo avuto tutti gli elementi per essere in quel gioco, ma abbiamo semplicemente perso una partita, il gioco lo sappiamo giocare. Quindi riutilizzare quello che ha imparato proponendosi e verificando sul campo la sua competenza per provarci ancora, oppure cambiare ancora. Gioco, per usare la tua metafora? Può cambiare gioco se si è resa conto che ciò che l'aveva spinta a quel gioco non era una motivazione corretta. Quindi, ripercorrendo questa motivazione, comprendere se era un gioco e le regole di quel gioco non fossero magari corrette per lei. Ma il punto di forza è che ha avuto la capacità di giocare una partita, che ha potuto analizzare anche non solo le sue competenze, ma gli aspetti strategici dell'avversario, che ha imparato qualche tecnica, e tutto questo lo deve mettere a patrimonio in un'analisi non influenzata dalle emozioni, ma dove riesca a classificare i fattori critici del suo successo o insuccesso. Grazie Carla Ciani, come sempre è una grande risorsa per tutti noi, e spero anche per Grazia, che ci ha scritto raccontandoci della sua sconfitta sul campo, ma abbiamo parlato molto anche di una grande sconfitta di queste ore, vale a dire di Hillary Clinton. Grazie Carla Ciani per essere stata con noi anche questa domenica, e grazie a voi per aver seguito Nessuna è Perfetta. Ci sentiamo domenica prossima.